Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 16 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di risparmio, ne parliamo perché ieri, come sapete, come vi abbiamo raccontato, è stata la giornata del risparmio e oggi ovviamente noi vogliamo focalizzarci su quello che è il risparmio delle famiglie, dei singoli. Ovviamente vi invitiamo a inviarci o anche a chiamarci per tutte le vostre richieste, i vostri dubbi e anche le vostre esperienze, perché ovviamente parleremo anche di ciò che è accaduto nel passato. E allora vi ricordo i nostri numeri, il numero verde a cui potete telefonare 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per tutti i vostri sms. Ovviamente ne parleremo come sempre con degli esperti, illustri ospiti. Prima però andiamo a vedere che cosa sta succedendo oggi sui mercati. Oggi è una giornata molto debole, molto volatile per le piazze del vecchio continente. Diciamo che ieri è stata una giornata positiva per tutti, grazie soprattutto al dato relativo al PIL del terzo trimestre degli Stati Uniti, più 3,5%, ricordiamolo, un dato ben oltre le attese degli analisti che si attendevano un 3% e che sancisce ufficialmente, almeno dal punto di vista tecnico, l'uscita degli Stati Uniti dalla recessione. Quali sono però i timori dei mercati? Il timore è che questo rialzo sia dovuto in gran parte al piano di stimoli e che comunque sul fronte dell'occupazione restino molte incognite e molti rischi. Questo in parte viene confermato anche oggi da alcuni dati che arrivano dall'Europa, in particolare lo avete anche sentito nel corso del nostro giornale radio, comunicato da Eurostat, la disoccupazione nell'Europa a 16 a settembre si attesta al 9,7%. È un dato record dal 1999. Dobbiamo anche dire che questa mattina sono arrivate delle dichiarazioni del presidente del Fondo Monetario Internazionale che dice appunto ci saranno altri risvolti negativi per l'occupazione entro la fine dell'anno. E tra l'altro questo monitor è arrivato anche ieri dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi proprio nel corso della giornata del risparmio. Draghi aveva annunciato ci sono già stati 650.000 posti di lavoro persi e altri sicuramente saranno persi entro la fine di questo 2009. Quindi i timori sul settore sul fronte della disoccupazione sono ancora molto molto alti. In più oggi dagli Stati Uniti è atteso il dato relativo alla fiducia dei consumatori misurato dall'Università del Michigan e anche qui forse potrebbero esserci delle brutte sorprese. Attualmente che cosa succede? Parigi cede uno 0,26%, Francoforte lo 0,44%, Londra è l'unica che riesce a mantenere il segno più tra le big, più 0,31%. A Milano il FTSE All Share cede uno 0,21%, il FTSE MIB lo 0,16%. Sul listino principale il miglior titolo in questo momento è Saipem, guadagna l'1,61%, seguito da Geox più 1,35%, Parmalat guadagna l'1,18%, Unicredit poco meno di un punto percentuale. In fondo al listino invece è scivolata Exor, meno 2,18%, anche Luxottica dopo un avvio positivo in questo momento cede l'1,75%, Autogrill 1,5%, Mondadori l'1,4%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,48,35 sul dollaro. Chiudiamo la nostra finestra sui mercati, io vado subito a presentarvi gli ospiti che saranno con noi, cominciando da Andrea Beltratti, docente di politica economica all'Università Bocconi e responsabile del rapporto Einaudi BNL sul risparmio degli italiani, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. E saluto il collega Marco Oliera, collega del Sole 24 Ore e responsabile di Plus 24. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi tutti. Allora, dicevamo, parliamo ovviamente di risparmio. Ieri nel corso della giornata del risparmio sono stati diffusi questi dati dell'analisi Ipsos proprio per la 85esima giornata mondiale del risparmio e sono usciti alcuni dati interessanti. Intanto che il 70% 78% degli intervistati ritiene che la situazione internazionale sia grave. Oltre la metà ritiene che ci vorranno almeno 3 anni per uscirne, però sale anche di parecchio la percentuale dei fiduciosi, circa il 55%. In più, dato interessante, il 37%, e quindi in progresso rispetto allo scorso anno, sono coloro che riescono a risparmiare. E allora sentiamo proprio a margine, in occasione di questa giornata del risparmio, che cosa ha raccontato il presidente dell'Ipsos, Nando Pagnoncelli, al microfono di Vincenzo Miglietta. Il dato per certi versi più sorprendente, confermato anche dai dati ISAE, è una ripresa di fiducia rispetto al futuro. Questa ripresa di fiducia non è dettata da incoscienza, perché coesiste con un livello largo di preoccupazione e con la consapevolezza che sarà una crisi lunga, una crisi che durerà 3 anni o più addirittura, pensano gli italiani. Diciamo che questa fiducia nel futuro è legata sostanzialmente a 2 componenti. La prima è la capacità degli italiani di adeguarsi a questa crisi, sto parlando della maggioranza degli italiani, quelli che hanno un reddito fisso e che hanno avuto anche un beneficio dal calo delle tariffe o dalla diminuzione dei mutui per chi ce li ha. Ebbene, dicevo, la riorganizzazione delle proprie priorità di acquisto ha fatto sì che tutto sommato in larga misura gli italiani siano riusciti a reggere all'urto della crisi. Il secondo aspetto è legato a questo concetto della crisi senza inflazione, di fatto, che tocca molto di più alcuni segmenti, alcuni settori della popolazione, molto meno altri. Quindi il cosiddetto sentiment complessivo è, come ripeto, improntato alla preoccupazione, ma con uno sguardo positivo rispetto al futuro. Un futuro che è giudicato roseo soprattutto sulla scorta di quella che è l'andamento percepito delle economie internazionali, europea e mondiale. Quindi mi pare di capire che gli effetti fondamentali sono 2, si torna da una parte a risparmiare, dall'altra parte la crisi comunque ha portato ad una modifica delle proprie abitudini di consumo. Esattamente così, il risparmio riconferma la propria centralità, soprattutto in presenza di questa previsione di crisi lunga, si mette da parte per i giorni di pioggia. La crisi economica ha rafforzato o ha indebolito il rapporto che ognuno di noi ha con la propria banca? Anche qui noi osserviamo una discreta ambivalenza, cioè da un lato quando si parla del settore bancario misuriamo, diciamo, un calo complessivo del livello di apprezzamento, poi però quando chiediamo qual è il rapporto con la propria banca vediamo che le cose non vanno così male. In assoluto però abbiamo riscontrato che il cittadino, a differenza di quanto rilevammo lo scorso anno, percepisce una minore tutela per il risparmiatore e auspica che ce ne sia di più, perché in realtà, soprattutto in situazioni di crisi, vorrebbero essere garantiti rispetto ai rischi che corrono nel momento in cui risparmiano e investono. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Io chiamo subito in causa i miei 2 ospiti perché è arrivato un messaggio che io condivido abbastanza. Ma perché qualcuno riesce ancora a risparmiare? Professor Beltratti. Condivido anch'io il messaggio, trovo i risultati abbastanza sorprendenti. Si tratta ovviamente dei risultati statistici, sì, certo. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che c'è un margine di aleatorietà e quindi di revisione di dato, sono basati su campioni, quindi credo ci saranno altre analisi anche in futuro che potranno confermare o meno questa tendenza. Certo, è chiaro che la situazione è difficile, giustamente come si diceva prima nell'intervista, il desiderio di aumentare il risparmio nelle fasi di incertezza è chiaramente a favore dell'ipotesi che c'è stato un aumento di risparmio. Del resto la crisi è molto reale dal punto di vista di molti risparmiatori, rende più difficile questo obiettivo, quindi trovo abbastanza sorprendente il dato. Anche perché, appunto, come dicevamo anche in apertura di programma, arrivano tutte queste notizie cattive, perché così sono, sul fronte dell'occupazione, che insomma difficilmente riusciamo a far concordare con questo dato sul risparmio. Marco, giro anche a te lo stesso messaggio, perché anche da te vorrei una considerazione a questo proposito. Ma in effetti è un po' difficile conciliare l'attuale situazione di erosione complessiva della capacità di spesa delle famiglie con il mantenimento, addirittura una risalita della propensione al risparmio. Bisogna dire che Avere una fotografia fedele di quello che sta succedendo è molto molto difficile, quindi non soltanto le statistiche come quella che abbiamo appena ascoltato spiegano solo una parte di quello che accade, ma noi stessi con tutta una serie di aneddoti possiamo arricchire queste statistiche, ma al tempo stesso non necessariamente avvicinarci alla verità. Le famiglie, ci sono tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, questo è assolutamente certo. Io però non escludo che ci sia una parte delle famiglie italiane che mantenendo il proprio stipendio fisso, perché non è che tutti hanno perso il lavoro, certo, e meno male pure, in uno scenario di bassa inflazione o addirittura inflazione zero, sì, riescono, e di mutui estremamente convenienti in virtù dei tassi in discesa, riesce ad incrementare il suo benessere in una condizione generalmente negativa. Allora, ci dobbiamo fermare per qualche istante per il meteo e la pubblicità. Ripartiremo però proprio parlando del basso livello di debito delle famiglie italiane, perché ieri questo è stato ribadito come ovviamente un punto di vantaggio anche dal governatore Draghi. A tra pochissimo. Salva Danaio. Sono le 12.33, stiamo parlando di risparmio, come cambia, come è cambiato, come dovrebbe cambiare in un momento difficile come questo, ovviamente laddove sia possibile risparmiare, e stavamo parlando proprio del basso indebitamento delle famiglie italiane. Ieri è stato ribadito anche dal governatore Draghi, viene sempre spiegato come comunque un fenomeno positivo. Professor Beltratti, visto che le famiglie italiane sono poco indebitate, qual è la conseguenza? Cioè, perché un po' ce la raccontano come dire, visto che siamo poco indebitati possiamo anche indebitarci di più. Sì, in linea teorica è vero. In pratica dobbiamo ricordarci che il debito basso delle famiglie italiane è accompagnato da un debito pubblico che invece è molto elevato, e quindi l'aggregato dei due ci porta a livelli, diciamo, di leva finanziaria macroeconomica complessiva che devono farci mantenere elevata la guardia. Quindi abbiamo un problema di debito pubblico sostanzialmente, e quello che nel breve periodo è il vero ostacolo, è quello che rende più difficile per l'Italia una manovra fiscale come quella che si sta ipotizzando in altri paesi europei. E quindi non dobbiamo mai dimenticare l'equilibrio macroeconomico complessivo. Ecco, però per restare proprio sul fronte, diciamo, del privato, delle famiglie, non è opportuno, magari non sarebbe meglio non dare conseguenze a un tipo di affermazione come questa, cioè le famiglie sono poco indebitate, bene così, sarebbe meglio che restasse così la situazione. Non capisco la considerazione. Nel senso che appunto spesso ci viene detto, beh, visto che appunto il livello è così basso, sì, è possibile andare oltre. Ah, certo. Ecco, forse sarebbe il caso invece di non incentivare, non so, chiedo a lei, beh, ovviamente. Certamente, a livello diciamo di commento, a livello complessivo sociale, di interpretazione del dato, dobbiamo ricordare che l'indebitamento privato non è necessariamente un bene, può essere un bene, diciamo, per l'economia nel breve periodo, in quanto può aumentare la domanda di consumi. Però non credo che si debba dare un messaggio in un senso o nell'altro, sono le singole famiglie a dover vedere la situazione del bilancio familiare, certo, delle prospettive di reddito, e prendere una decisione il più possibile assennata. Fare poi le proprie considerazioni, ovviamente partendo dalla propria situazione. Marco, anche a te giro questa considerazione da fare su questa situazione. Ma questo è molto interessante, il tema del debito, perché le famiglie italiane hanno evitato di indebitarsi perché, come diceva prima Andrea, a indebitarsi ci ha pensato lo Stato italiano per loro, perché io mi renderò molto impopolare in questo momento, però penso che non ci sia famiglia italiana che non abbia fruito del debito pubblico in termini di pensioni sproporzionate rispetto ai contributi versati, decenni di scuola gratis, decenni di sanità gratuita. Cioè, noi abbiamo alle spalle un'epoca di grande trasferimento di benessere dai conti pubblici alle famiglie. Allora, siccome prima o poi i nodi vengono al pettine, allora ci si è chiesti se si poteva andare avanti così e dall'Europa la risposta è stata no, non potete andare avanti così, e quindi c'è questo da diversi anni piano di rientro, almeno di contenimento, di non espansione del debito. Solo che il debito pubblico, a differenza di quello privato, purtroppo è molto deresponsabilizzante, perché mentre quando l'individuo si indebita, beh, dice i debiti sono miei e di nessun altro, quando il debito è dello Stato, eh certo, si tende sempre a dire che è di qualcun altro. Sì, ovviamente non ci si rende mai conto poi di qual è il peso nella propria tasca, insomma. Sì, e una maggiore responsabilizzazione degli individui, io penso che possa portare a una redistribuzione del debito. Quindi io, da un certo punto di vista, auspico che in costanza di debito complessivo ci sia una riduzione del debito pubblico, perché è fortemente deresponsabilizzante, certo, e un controllato innalzamento di quello privato. Il problema, dalle tue considerazioni, Marco, è che poi i benefici sono stati tutti incamerati da famiglie che ovviamente adesso hanno anche una certa età, e tutti gli svantaggi in qualche modo vengono rovesciati sulle nuove generazioni, ed è per questo che poi si banalizza tutto dicendo che in questa epoca i figli non staranno meglio dei padri. Hai ragione, Valeria, infatti per questo si parla di welfare familiare, di genitori che vedono i figli che non trovano lavoro e che ormai sono rassegnati a questa ipotesi di vederli o appunto disoccupati di lungo periodo oppure con lavori saltuari. Ed è per questo che noi riceviamo lettere di genitori un po' anziani che ci chiedono cosa devo fare per dare una pensione ai miei figli. Certo. Perché si sono ormai rassegnati all'idea di un'occupazione molto deludente e si preoccupano di dare loro quantomeno un benessere o una dignitosa sopravvivenza, per quando questo non avranno neanche più la possibilità di lavorare. Certo, poi magari se riusciremo ad avere il tempo parleremo anche in certo qual modo delle pensioni e dei fondi pensione, che potrebbero essere una forma di risparmio e che ci dicono anche un po' come è cambiato il risparmio da qualche anno a questa parte e anche forse la percezione del rischio. Io vorrei ripartire da qui, professor Beltratti, proprio per capire come è cambiato negli ultimi anni proprio il modo di risparmiare, come dovrebbe essere cambiato, perché in fondo il 2008 è stato un anno di spartiacque. Sì, il 2008 è stato un anno di spartiacque, è stato un anno molto difficile. La composizione media degli investimenti delle famiglie italiane, quindi se prendiamo il dato medio ipotizzando che ci sia una famiglia rappresentativa, è comunque pur sempre una struttura di portafoglio estremamente cauta, con una grossa componente di liquidità, una grossa componente di reddito fisso e una componente ancora più grande di investimenti immobiliari, quindi dal punto di vista finanziario è un portafoglio estremamente sensibile al tasso di interesse e meno sensibile all'andamento del mercato azionario, quindi è stato sicuramente un bene questo, sì, perché ha consentito alle famiglie italiane di resistere molto meglio e quindi di non soffrire la crisi, come invece è successo a famiglie di altri paesi, qua pensiamo appunto a paesi anglosassoni, certo, in cui il forte investimento azionario accompagnato a un forte investimento rischioso anche per quanto riguarda la parte pensionistica, che lei giustamente citava in precedenza, ha comportato situazioni di forte riduzione del benessere e di enorme preoccupazione per il futuro. Quindi indubbiamente in una fase di crisi il portafoglio degli italiani è stato appropriato. E la stessa considerazione la possiamo fare paradossalmente se guardiamo in realtà gli ultimi 10 anni. Gli ultimi 10 anni sono un periodo in cui il mercato azionario alla fine non ha prodotto dei rendimenti particolarmente interessanti, è grosso modo piatto, forse un po' negativo, nel contesto di una volatilità molto accentuata che è aumentata, e quindi di nuovo se guardiamo l'ultimo decennio, gli italiani che hanno sfidato qualsiasi legge di teoria finanziaria, sì, mantenendo un portafoglio estremamente cauto, sì, hanno avuto risultati probabilmente superiori a quello di altri che hanno invece effettuato degli investimenti teoricamente più corretti, teoricamente più legati a lungo periodo e quindi più sbilanciati, certo, verso le azioni, che in teoria dovrebbero dare rendimenti attesi più elevati, ma che finora in questo ultimo periodo non sono stati rilevanti. Do il benvenuto a Francesco da Chieti, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Senta, io volevo fare una domanda al professore, perché ieri sera con degli amici, un circolo di anziani, si parlava sempre di questo debito pubblico, che a volte, almeno per non gli addetti al lavoro, compreso me, è un po' un'espressione che si usa spesso, però non si è riuscito bene a capire con chi siamo indebitati. Qualcuno ha anche ipotizzato le pensioni, che ci fanno venire il complesso di colpa, abbiamo lavorato una vita intera e poi ci troveremo. E poi c'è un altro concetto, mi scusi se mi prolungo un attimo, quando un'impresa è in passivo si tagliano subito, si incomincia con i licenziamenti e quant'altro, ma essendo questo Stato in passivo, lui non licenzia mai nessuno, cioè non piglia provvedimenti, anche perché, come si fa in qualsiasi famiglia, impresa, sia effettivamente una riduzione drastica di certe uscite che pure noi vediamo a volte intorno a noi inutili, superflue. Certo. Allora, il problema di fondo è questo passivo, con chi siamo indebitati. Ecco, girerei questa domanda al professor Beltratti, anche se poi la seconda parte della domanda è molto più politica, per cui mi asterrei in questo momento dal fare commenti sul come, quando e perché lo Stato deve o non deve licenziare. Professore. Sì, ma siamo indebitati in larga parte con noi stessi, buona parte del debito pubblico è detenuto da altri risparmiatori italiani che hanno approfittato appunto delle situazioni che venivano raccontate precedentemente da Marco, sì, per poter accumulare attività finanziarie, e quindi in realtà la maggior parte del debito è anche un attivo da parte di altri risparmiatori, e quindi mantenendo i diritti di proprietà di chi ha investito e dovendo garantire una remunerazione al capitale è necessario pagare interessi, però è anche necessario prima o poi, proprio per mantenere le compatibilità macroeconomiche di cui parlavamo, procedere ad una riduzione di questo debito che a causa della crisi è aumentato in maniera sensibile rispetto al prodotto. Certo, poi ricordiamo anche che forse in quest'ultimo periodo abbiamo beneficiato dei bassi tassi di interesse per quanto riguarda il debito, che però sono destinati a risalire, quindi prima o poi si aggiungerà anche questo altro problema sulla già enorme entità del debito in sé. Giuseppe da Monza, buongiorno, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno. Ci grazie dica. Di avermi richiamato, buongiorno. Senti, io vorrei un parere spassionato, al di là di ogni, come posso dire, ideologia economico-politica dei convenuti sul tema dell'inflazione pari a zero, addirittura negativa. Secondo me, francamente, è una fola, nel senso che come i tempi si diceva, i tempi dell'ingresso dell'euro, scusatemi, si diceva che i prezzi non erano in aumento, per poi svegliarsi due anni dopo, tutti urlando, i prezzi sono raddoppiati, oggi sta accadendo la stessa cosa. Noi andiamo nei supermercati, io sono un consumatore, spendo di più di prima, ma veramente più di prima. Prima vuol dire luglio, vuol dire giugno. Ecco, allora, cosa sta succedendo? E quali potranno essere gli influssi sul risparmio di questa inflazione che viene data a zero, ma non è a zero? Allora, voglio far intervenire entrambi gli ospiti, partirei da Marco, anche perché qui c'è anche una considerazione ulteriore, cioè potremmo risvegliarci un domani e capire che invece non era proprio a zero questa inflazione, partendo dal presupposto che poi un'inflazione a zero forse non porta proprio tutti questi grandi benefici. Ma soprattutto quando la percezione è diversa, perché un conto è la percezione che le famiglie hanno rispetto all'incremento dei prezzi nel loro paniere di consumi, e un altro discorso invece sono le statistiche ufficiali. Sì. I due valori possono divergere, ma questo è sempre accaduto. Forse si fa più sentire, nel senso crea più irritazione, nel momento in cui le statistiche ufficiali ci parlano di un'inflazione vicina a zero. Certo. Allora, professore, poi chiamerò in causa anche lei, ci dobbiamo fermare per qualche istante, diamo la linea alla viabilità. Salva Danaio. Le 12.47, allora riparto dal professor Beltratti, il tema dell'inflazione, il signor Giuseppe ci diceva, non mi sembra di pagare meno di quanto non pagassi la mia spesa rispetto al mese di luglio. Che sta succedendo? Beh, è un problema comune, in parte, come ha detto Marco, si tratta di un problema di dissociazione fra l'andamento effettivo del paniere consumato da una certa famiglia e il dato medio. Vorrei aggiungere che un altro tema in realtà è dato dal fatto che è probabilmente il reddito che non è salito. Certo. Quindi si ha a fronte di prezzi che grosso modo sono forse saliti per quanto riguarda un certo paniere di consumo in maniera particolare, è chiaro che se il reddito fosse salito in maniera proporzionale o più che proporzionale, il costo in termini reali sarebbe percepito in maniera meno rilevante. Quindi coerentemente con quanto sappiamo dell'Italia, della bassa crescita che purtroppo ha caratterizzato alcuni periodi di vita economica del nostro paese, è evidente che alcuni andamenti di prezzi sono sentiti in maniera maggiore in presenza di una dinamica di redditi un po' stagnante. E sicuramente per questo, anche se, perché ci scrivono alcuni ascoltatori, io questi vantaggi per la bassa inflazione non li ho recepiti, forse se risparmio 20 euro al mese è già grasso che cola. Ovviamente poi ci sono situazioni e situazioni, ogni famiglia ha la sua e si renderà conto della propria situazione, del proprio andamento. Io però volevo tornare velocemente sulle pensioni, anche perché poi il collega Marcogliera ci deve lasciare, perché quello dei fondi pensione, che forse fino adesso non hanno incontrato tutto quell'entusiasmo che si sperava potessero incontrare, potrebbe rappresentare una forma di risparmio che in una situazione difficile come la nostra, con un debito pubblico così alto e soprattutto considerando che non avremo le stesse pensioni dei nostri padri, potrebbe essere una scelta di una certa rilevanza, Marco? Sì, per alimentare i fondi pensione, perché è questo quello di cui stiamo parlando, quindi l'integrazione pensionistica, però ci deve essere la capacità di contribuire a questo secondo pilastro. Allora, da dove viene la capacità di contribuire? Il reddito è di per sé eroso dalla contribuzione obbligatoria e dalla tassazione. C'è questo tesoretto del TFR, che peraltro riguarda il TFR futuro come fonte di alimentazione del secondo pilastro, ma qui interviene un fattore comportamentale. Qual è? È che i lavoratori, e io qui ho molto rispetto dei fattori comportamentali, hanno dimostrato fino ad oggi di preferire di lasciare il TFR lì dov'è. Questo sì. Probabilmente sarà accaduto per mancanza di cultura, mancanza di preparazione e così via, ma attenzione, noi dobbiamo rispettare le scelte di tutti i risparmiatori. Certo. Quindi se in un dato momento si sentono più al sicuro lasciando TFR in azienda, anche se questo può dimostrarsi con elevatissima probabilità inefficiente dal punto di vista finanziario, noi dobbiamo rispettare questa decisione. Grazie a Marco Liera, che saluto perché so che deve andar via, ricordiamolo, collega del Sole 24 Ore, responsabile di Plus 24, a lui buona giornata e buon lavoro, e noi continuiamo per i pochi minuti che ancora ci restano con il signor Mauro da Biella. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dica. Volevo solo portare la mia esperienza, io sono un rappresentante di materiale plastico per pulizie casalinghi, volevo solo dar conferma a quello che diceva il radioascoltatore che ha telefonato prima, cioè secondo me l'inflazione non è a zero. Io vedo che per le aziende con cui tratto io, da gennaio adesso ci sono stati comunque degli aumenti di prezzi, con l'inflazione a zero avrebbero quantomeno dovuto rimanere fermi, invece ci sono continui aumenti. Oltretutto c'è un altro fatto che è strano, nel senso siamo in un periodo di crisi, dunque dovrebbe esserci sovrabbondanza di prodotto, invece quando si fanno gli ordini le aziende produttrici non consegnano, non dico la metà, ma consegnano il 70-80% del prodotto, non tutte, ma la maggior parte, cioè ci mettono 2-3 volte per fare una consegna. Grazie. Non hanno prodotto, certo. Prodotto in casa. Certo, grazie signor Mauro per la sua testimonianza. Professor Beltratti, le vorrei girare alcune domande un po' diverse tra di loro, ma tra l'altro alcune arrivano proprio dagli SMS, ricordo 349-238-6666. Per tornare al debito pubblico, c'è chi chiede perché la banca centrale, in questo caso la Banca d'Italia, non vende una parte delle riserve di oro, quindi le riserve auree. Ma è una scelta appunto strategica di lungo periodo della Banca d'Italia, che fra l'altro incidentalmente ha pagato, perché L'oro è tornato su valori molto elevati, è intorno a $1,000, ha superato i $1,000, è proprio dopo una fase storica di alcuni anni in cui molte banche centrali avevano deciso di ridurre le riserve in oro. Quindi effettivamente dal punto di vista finanziario è una scelta che comunque ha è stata, credo, abbastanza positiva. Ci sono molti investitori internazionali, infatti, che ritengono che proprio in previsione di un potenziale aumento di inflazione di lungo periodo l'oro possa rappresentare un bene rifugio che sarà utile mantenere. Quindi da un punto di vista finanziario, strategico, ci possono essere varie motivazioni e la scelta non è stata, mi sembra, infelice. Certo. Altra domanda che le voglio fare è la seguente. Visto che ieri il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, è tornato a parlare dei derivati e a lanciare un nuovo allarme sui derivati, allora mi chiedo, è possibile questo? Non è bastata la scottatura degli scorsi mesi per in qualche modo arginare questo fenomeno? E a questo proposito i risparmiatori che cosa possono e devono fare? Ma il tema dei derivati è molto delicato, gli strumenti derivati sono strumenti estremamente volatili, estremamente complessi, che non dovrebbero essere utilizzati da chi non ha adeguata conoscenza finanziaria, quindi in realtà in un paese in cui certo non brilliamo in aggregato per la conoscenza finanziaria, dovrebbe essere veramente una piccolissima percentuale di risparmiatori che utilizzano i derivati nelle scelte finanziarie, anche perché quasi inevitabilmente nella maggior parte dei casi i derivati accorciano l'orizzonte temporale, perché sono strumenti che molto spesso hanno dei risultati che dipendono da quello che succederà all'andamento del mercato nel giro di 3 mesi, 6 mesi, e quindi estremamente poco adatti invece a chi dovrebbe avere orizzonti più di lungo periodo. Quindi io non so, non ho dati per capire se effettivamente ci sia stato un nuovo aumento del fenomeno, se questo coinvolga imprese, investitori individuali. Certo è che abbiamo visto negli ultimi anni emergere vari fenomeni e vari problemi legati all'utilizzo dei derivati, ed è auspicabile che sia stato fatto tesoro di questa esperienza per cercare di non ripetere gli errori, perché è vero che possono essere usati come copertura, però in molti casi sono usati invece per finalità speculative, e questo certo non è adatto, certamente. Professore, proprio in una battuta le voglio chiedere questo. Abbiamo toccato così velocemente l'importanza della conoscenza, quindi dell'educazione finanziaria. Perché nessuno se ne occupa in Italia di questa gestione del risparmio da parte dei piccoli risparmiatori? Non è un tema che prende molto? Beh, è un tema centrale, indubbiamente, il fatto che il risparmio degli italiani abbia certe caratteristiche anche legato alle strutture di conoscenza e di educazione finanziaria. In teoria le istituzioni che dovrebbero occuparsene sono le banche, sono i promotori finanziari. Io credo che soprattutto andando verso un periodo in cui sempre di più per la banca il vero valore del rapporto con il risparmiatore sarà quello legato alla consulenza, credo che dovranno continuare ad attrezzarsi per migliorare ulteriormente. Perché alla fine capiranno e hanno già capito che ci deve essere una comunione di intenti fra il risparmiatore e la banca, per cui il vero valore deve essere creato per entrambi e poi ripartito in maniera equa. Noi ce l'auguriamo che questo possa migliorare anche in futuro. Grazie ad Andrea Beltratti, docente di politica economica all'Università Bocconi, anche a lui buona giornata e buon lavoro. Io ringrazio in redazione Gaia Romani, Alessandro Longoni, in regia Carmelo Lauricella. L'appuntamento con Salva Danaio è per lunedì.